Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchesi. Oggi è il 15 di febbraio. Italia in controluce, il quotidiano sulla cronaca italiana con taglio da magazine. Una puntata speciale dedicata al piano regolatore di Milano, alla trasformazione della capitale economica del paese. Il reportage di Cristina Carpinelli. Non siamo nati mica ieri, capataz. Milano ha un piano regolatore dopo 30 anni. È stato un piano approvato coi soli voti della maggioranza. Questo è un dato politico fondamentale per muoverci all'interno di una storia che ha molti livelli, molti cassetti e tanta roba che verrà fuori nel tempo, in positivo e in negativo. Resta il fatto che il piano ha scatenato l'arrabbiatura dell'opposizione, che ha abbandonato l'aula e inscenato proteste promettendo di ricorrere al TAR. Ma partiamo dall'inizio. Abbiamo deciso di intervistare chi ha spinto molto per arrivare in fretta all'approvazione, e cioè l'assessore all'urbanistica Masseroli. La prima domanda è: perché tanta fretta? Non è tanto una questione di fretta di qualcuno, come da qualche parte è stato detto, quanto l'esigenza di una città di avere regole nuove e condivise per poter affrontare la concorrenza internazionale che fanno altre città e per comunque avere un territorio sempre più di qualità e che risponda ai bisogni dei cittadini. Ecco, quali sono allora le regole innovative, diciamo, sulle quali si basa questo piano? Il vecchio piano regolatore prevedeva la crescita della città in espansione, cioè consumando nuovo suolo, al posto di avere parchi, in particolare il Parco Sud, nuove case. Questa era la previsione del vecchio piano. Il nuovo piano di governo del territorio ferma questo percorso e dice che la città deve ricostruirsi su se stessa, bisogna riqualificare ambiti degradati, ad esempio i vecchi scali, ad esempio le vecchie caserme laddove non sono più in uso, eccetera eccetera, e bisogna che la città cresca insieme alle sue infrastrutture di mobilità possono essere economicamente sostenibile solo laddove la città ha una sua densità e piena di funzioni. Fine. Uno dei grandi temi di cui si è parlato è quello dell'housing sociale, bisogno della città, cioè case a prezzi bassi. Il piano le prevede e ne prevede in grande quantità con la collaborazione da parte di tutti gli attori, dalle cooperative ai costruttori. Le aree pubbliche, quindi ex caserme eccetera, verranno riutilizzate per servizi pubblici o verranno costruite delle case da vendere poi ai privati? Le aree pubbliche, queste aree che sono di proprietà pubblica, se dovessimo pensare di realizzare solo funzioni pubbliche, non ci sarebbe la sostenibilità economica di nessuna operazione da parte del pubblico stesso che è proprietario di quelle aree, né del Ministero della Difesa che è proprietario delle caserme, né tantomeno delle Ferrovie dello Stato, che certamente non hanno nelle loro competenze e nelle loro possibilità, nei loro bilanci, l'ipotesi di dare di finanziare la realizzazione di servizi nelle città. Ecco, un'altra questione guardando ad esempio alla storia di Torino, no? Con le Olimpiadi, Torino alla fine si è ritrovata a creare all'interno della sua stessa città una bolla sul mercato edilizio che ancora oggi è lì, cioè non rischiamo anche noi con questo piano di entrare in quella situazione, visto che già comunque il mercato immobiliare è in crisi? Allora, la bolla di Torino nasce dal fatto che loro hanno costruito in funzione di un'attività, di un'iniziativa, quella delle Olimpiadi, che durava un breve periodo, intenso ma breve. Finito quel periodo, le cose che sono state realizzate non erano più in uso. Non è analogo il ragionamento su Milano, nel senso che sulla città noi attraverso il piano oggi diamo delle potenzialità su progetti che non sono di breve periodo, ma progetti di lungo e lunghissimo periodo. Ciascun operatore immobiliare certamente farà i conti col mercato e quindi realizzerà alloggi in funzione del fatto che li potrà vendere. Milano è una città che di fatto dovrebbe partire dal recupero degli alloggi esistenti, cosa che ancora adesso non è stata messa in atto. Questo è un tema fortemente affrontato dal piano. Allora, se ci sono nella città, come è vero, degli spazi che non sono utilizzati, degli spazi all'interno di palazzi, magari un piano di un palazzo, eccetera, e nel frattempo le nuove edificazioni che magari hanno prezzi intorno ai 3.000 euro al metro quadro o 2.500 euro al metro quadro vanno a ruba nella città, non rimangono vuote, se è vero questo, perché sono vere entrambe le cose, vuol dire che il vecchio edificato che ha funzioni non più attuali deve essere reso flessibile come funzione per poter far sì che sia riutilizzato. Cosa intendo dire? Intendo dire che se all'interno di un palazzo di 6 piani c'è un appartamento di 700 metri, più appartamenti che costituiscono un piano magari 1000 metri quadri, beh, quello grazie al piano potrà cambiare destinazione d'uso. Prima non era possibile senza fare una variante urbanistica lunga, farraginosa e burocratica. Oggi può diventare da ufficio a residenza, può diventare da albergo a servizio e diventando servizio può spostare le volumetrie altrove da costruire. Il piano prevede 9 linee di metropolitana in più, ma si parla però anche di aree da edificare all'interno del Parco Agricolo Sud, che come è noto risulta essere un polmoncino per una città devastata dallo smog da polveri sottili come Milano. Il timore di ambientalisti e di una parte della società civile è che il comune abbia lasciato il terreno in mano ai costruttori e che questo sia un modo per far cassa dopo che gli sponsor hanno mollato l'Expo. Una cosa inaudita solo a pensarla, dice l'assessore. Ma come la pensa l'opposizione? Abbiamo sentito Maurizio Baruffi del Partito Democratico Milanese. Stanno soltanto aspettando un segno. Dal nostro punto di vista l'operazione che è stata fatta è stata un'operazione con la quale si sono messi assieme la tutela degli interessi forti degli speculatori edilizi che ci sono in città e dall'altra parte la carenza di attenzione rispetto a uno dei principi basilari della democrazia, che è quello della partecipazione dei cittadini. Ecco, quali sono i punti più preoccupanti dal vostro punto di vista di questo piano? Beh, si fa un'operazione di grande utilizzo del cemento in qualsiasi posto utilizzabile a Milano, questo è grave. È evidente che le preoccupazioni maggiori sono quelle legate al futuro delle aree del Parco Agricolo Sud Milano, ma poi anche su tutti gli scali ferroviari che verranno via via dismessi si prevede una edificazione assolutamente massiccia e sproporzionata. Noi riteniamo e ritenevamo comunque migliore l'idea di dotare Milano di alcuni grandi polmoni verdi anche nelle zone più centrali, penso per esempio all'utilizzo dello scalo Farini, dove ovviamente si sarebbe potuta realizzare davvero un Central Park milanese, cosa che invece non verrà fatta. La prima edizione di Italia in Controluce, radio24.it, il luogo di internet dove potete scaricare tutte le puntate, poi su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it, dove potete segnalarci i vostri temi e anche le notizie da darci. La mia voce torna oggi 13:30 naturalmente su Radio 24.